piccola goccia sopra il dorso di una roccia, tu sei scivolata via. Non chiamarmi, non seguirmi, so che tutto questo potrebbe essere anche causa mia. Sono stato attento nei miei passi e nelle scelte, come non lo sei mai stata tu. Ma sei diventata uno spazio pubblicitario come quelli proiettati alla TV. Tu non mi dai la sicurezza che io vorrei. Dai, l'amore che io pretendo da te, come pagine strappate dal mio diario di una vita. Ora non so più chi sei, ora non so più chi e sei. E quell'amore, quel calore che ti davo anche quando litigavo, ora non lo trovo più. Preoccupi e fai finta che il presente si confonda col passato, ma col passato, ma alcune cose sono incise dentro me come profondi solchi e non guariranno più. Ma ora lasciami andare, forse è così che dovevo andare. Lasciami andare, forse è così che deve finire. Non sbattere la porta quando esci, una porta sbattuta non si riapre, sai. Ci sentiamo qualche volta e se avrò voglia usciamo, ma non diamo nulla per scontato ormai. È più giusto che le nostre strade si dividano, e se il destino lo vorrà, vedrai che a un bivio o ad un incrocio il nostro amore si rincontrerà. Ma ora lasciami andare, forse è così che doveva andare. Lasciami andare, forse è così che deve finire. E tu lasciami andare, forse è così.